2024 2024 di Enrico Pagliarini. Benvenuti o bentornati, nuova puntata di 2024. Oggi con noi Valeria Bernardi che si occupa della parte tecnica. Io sono Enrico Pagliarini, vi ricordo subito il nostro numero verde, il numero per intervenire soprattutto nella seconda parte, 800 24 0024. Parleremo nella seconda parte dei punti vendita, un argomento potremmo dire originale, ma visto che quasi tutti noi prima o poi finiamo in un negozio, in un grande centro specializzato in elettronica di consumo, anche solo per fare una visita, per vedere qualche prodotto, beh, oggi parleremo di questo settore, guardando anche al settore dell'elettronica di consumo in generale, per capire come stanno andando le cose, ma soprattutto se ci sono delle idee per sfuggire a questa crisi. Soprattutto voi, che cosa chiedete ai punti vendita? Secondo voi che cosa dovrebbero fare per innovare il servizio? Di questo ed altro parleremo soprattutto nella seconda parte, partendo anche da una considerazione molto banale, se volete, visto che si è discusso molto del nuovo iPad e alcuni dicono che si tratta di un upgrade, di fatto è un upgrade e quindi non di una grande novità. Beh, questo riguarda un po' tutto il settore dell'elettronica di consumo. Stiamo vivendo un periodo di novità non eclatanti. Abbiamo già visto il passaggio dai telefonini agli smartphone, abbiamo visto l'arrivo dei tablet, gli ultrabook non sono stati una grande novità. Insomma, da qui partiremo per alcune considerazioni per capire anche che cosa possiamo aspettarci in termini di servizi dalla distribuzione organizzata, che è strettamente legata con l'uso che noi facciamo dell'elettronica di consumo. Dunque, in questa prima parte vorrei invece porre l'attenzione sull'autorità per le comunicazioni. Perché ne parliamo? Perché è importante, lo capirete tra poco. Ha fatto recentemente un appello sulle pagine della stampa il professor Juan Carlos De Martin, che è docente di ingegneria informatica al Politecnico di Torino. Professore, buongiorno, benvenuto, grazie per essere buongiorno, con noi. Buongiorno a tutti. Tu hai scritto questo editoriale molto interessante che si è diffuso anche molto in rete, se ne è parlato molto, dove c'è una proposta molto semplice e potremmo dire anche dovrebbe essere scontato, ma purtroppo non è così, dove si sottolinea l'importanza di questa elezione. Eleggere i commissari nuovi a maggio per il rinnovo del Consiglio dell'Autorità per le Comunicazioni è molto importante e dovrebbero cambiare le cose. Cambiare in che senso? Ma cambiare perché, come anch'io stesso nella mia ignoranza ho scoperto soltanto in queste ultime settimane, la modalità attuale di nomina dei commissari, ma non soltanto dell'Agicom, anche se in questo contesto ci concentriamo sull'Agicom, ma anche di altre autorità o gli stessi membri del Consiglio RAI, è una modalità sorprendente, almeno dal mio punto di vista. Cioè, sostanzialmente non esistono candidati ufficiali e quindi, non esistendo candidati ufficiali, non ci sono neanche curriculum, audizioni, interviste ai candidati, non c'è nulla. Semplicemente si arriva al momento della votazione a Camera dei Deputati, al Senato, e dei nomi compaiono, ovviamente non dal nulla, perché di sicuro ci saranno delle trattative o delle discussioni interne riservate. Per quello che riguarda un cittadino esterno, sembrano comparire dal nulla dei nomi, e uno di questi viene votato e diventa commissario dell'Agicom. Quattro diventeranno commissari dell'Agicom con questa procedura, se non succede qualcosa nel frattempo. Allora, quando ho letto il resoconto dell'ultima di queste votazioni, che è soltanto un esempio, il più recente, nulla contro la specifica persona, che in questo caso era il commissario Martuscello, e quando ho letto che la procedura era questa, e sapendo l'importanza che ha crescente l'Agicom nel campo delle telecomunicazioni e nel campo di internet, che è quello che mi sta, come sai, più a cuore, allora ho pensato che fosse doveroso quantomeno far sapere che si è proceduto fino adesso in questo modo e chiedere sostanzialmente ai partiti, al governo, di spontaneamente, visto che non ci sono i tempi tecnici per cambiare le regole, spontaneamente seguire questa volta una nuova strada. Siamo in un momento in cui si parla molto di merito e di competenza tecnica, ebbene, che volontariamente i principali partiti, quelli che hanno voce in capitolo in questi casi, e il governo, con la sua moral suasion nel caso dell'elezione dei quattro commissari, decidono di seguire per una volta una strada differente basata sulla trasparenza e su un dibattito prima dell'elezione, in maniera tale che la scelta che faranno la Camera dei Deputati e il Senato sia una scelta consapevole. Noi stiamo parlando di un tema che può sembrare lontano dai cittadini, ma in realtà stiamo parlando di un tema che poi riguarda l'esperienza che tutti i giorni, almeno per chi utilizza internet, facciamo in rete. Ecco, perché l'authority è molto importante, e quindi di conseguenza l'elezione dei commissari, anche la qualità, la competenza, la serietà e la moralità di questi commissari è importante e lo sarà sempre di più. Allora, è importante perché i poteri di un'autorità come l'Agicom, o se vogliamo riferimento internazionale alla più antica che io sappia di queste autorità, che è la Federal Communications Commission in America, nata addirittura negli anni 30 del secolo scorso, e hanno poteri molto ampi per quello che riguardano la telefonia, la radio, la televisione e in questi ultimi lustri su internet. Dei poteri quindi che sono poteri regolamentari, quindi c'è un contesto normativo delle leggi, vengono affidati dei poteri a questa autorità e questa autorità può intervenire in campi molto importanti. Pensiamo al più recente, come sai che mi ha visto anche direttamente coinvolto relativamente alla tutela del diritto d'autore online. E c'è una legge che è quella sul diritto d'autore, costantemente rivista in questi 70 anni da quando è stata promulgata, ma dopodiché vediamo un'autorità entrare direttamente con una proposta di regolamento importante che potrebbe toccare la vita e l'operato di chiunque si affaccia su internet in questo momento, vale a dire ormai la maggior parte dei cittadini, persino in Italia. Ecco perché è importante che quelle persone che sono chiamate a intervenire su aspetti importanti delle comunicazioni di massa, delle comunicazioni su internet, siano persone di cui si sappia chi sono, da dove vengono, hanno conflitti di interesse, hanno la competenza per conoscere questi argomenti, come la pensano su diversi punti cruciali, in maniera tale che nel momento in cui il Parlamento poi è chiamato ad eleggerli, sappiamo che per quali motivi e quali idee abbiano le persone che vengono messa in quella posizione. In questo periodo, tu ne hai accennato, si sta parlando molto di questo regolamento sul diritto d'autore. Uno potrebbe domandarsi, ed è parte del dibattito, se non sia il caso invece che di questo si occupi il Parlamento. Ma in realtà non sono io a dirlo, addirittura il presidente dell'Agicom uscente Calabrò ad averlo detto di ripetute volte e anche alla recente audizione che c'è stata in Senato, cioè l'enorme avviso mio e di diversi altri esperti in questo momento attribuiscono all'autorità una competenza molto limitata sui prodotti audiovisivi per una norma che ormai è legge ma che era stata ed è tuttora controversa del cosiddetto decreto Romani, quindi una competenza molto specifica sui prodotti audiovisivi. A nostro avviso l'autorità la vuole allargare senza una base giuridica forte a tutto il diritto d'autore. E effettivamente il presidente Calabrò ha riconosciuto che sarebbe molto meglio se il Parlamento intervenisse e chiarisse in maniera definitiva e non ambigua quali sono i confini delle autorità di intervento dell'Agicom. Tornando all'appello che è stato fatto, che tu hai fatto, insomma che altri fanno al Parlamento affinché vengano scelti dei candidati da cui poi si arrivi all'elezione dei commissari. Noi cittadini possiamo fare qualcosa? Chi ci sta ascoltando può fare qualche cosa? Secondo me quello che è sicuramente possibile fare in questo momento è, da parte della società civile, quindi noi cittadini, associazioni, fare pressione sui nostri rappresentanti in Parlamento affinché spontaneamente, come dicevo prima, cambino il loro modo di agire, rinuncino a parte di questa discrezionalità estrema che hanno i partiti politici in questo momento, in questo ambito, rinuncino spontaneamente, in attesa di un cambiamento regolamentare. Per esempio, so che i senatori radicali avevano presentato una proposta di cambiamento del regolamento del Senato proprio a questo proposito. Non c'è tempo di cambiarlo, i tempi sono troppo stretti, e allora come società civile chiediamo ai nostri senatori, ai nostri deputati, cambiate strada. E qualche primo riscontro positivo, anche forse solo banalmente su Twitter, devo dire che ho cominciato a trovarlo. Influenti senatori e deputati autorevoli effettivamente concordano. Questa volta si dovrebbe cambiare strada e hanno preso un impegno, per quanto limitato come quello che può essere un impegno su Twitter, ad attivarsi in questa direzione. E comunque, insomma, Twitter già ha un pubblico anche in Italia piuttosto vasto, e poi con tutti i retweet che ci sono a volte si raggiungono veramente migliaia di persone. Dunque ci fermiamo per un minuto, riprendiamo tra poco. 2024. Riprendiamo questa puntata. Dicevamo poco fa che cosa un singolo cittadino può fare. Beh, in realtà molto di più di quello che sembra. Ad esempio, a livello locale, visto che alcune cose, certo, prima parlavamo dell'autorità delle comunicazioni, queste cose si decidono a livello nazionale, però per quanto riguarda ad esempio la diffusione di internet e la diffusione dei servizi su internet, visto che tra poco ci saranno le elezioni amministrative locali, beh, andate agli incontri pubblici e domandate personalmente ai politici che si candidano e magari parlano di strade, rotonde, cose oramai certo ancora utili ma molto poco utili rispetto alla rete internet, alla banda larga, alla fibra e ai servizi digitali. Beh, fate delle domande specifiche sui programmi che hanno ad esempio da questo punto di vista, metteteli un po' con le spalle al muro. Visto che siamo collegati con il professor De Martin, approfitto per fargli dire due cose, fargli una domanda su una cosa che è iniziata, è partita, una cosa abbastanza originale al Politecnico di Torino, chiamata Rivoluzione Digitale. Di che cosa si tratta? Allora, è un corso che ho proposto al mio preside, che poi è stato approvato da tutti gli organi direttivi del Politecnico di Torino l'anno scorso, un corso dove in maniera multidisciplinare, quindi partendo sicuramente dalla tecnologia, io sono, come tu hai ricordato all'inizio, un ingegnere informatico, ma includo anche conoscenze di storia, conoscenze giuridiche, conoscenze economiche, sociologiche, provare a dare gli elementi a questi ragazzi che sono quasi tutti del primo anno, da diversi corsi di laurea, quindi non necessariamente informatici, abbiamo studenti di design, studenti di architettura, provare a dare degli elementi per capire, gettare un po' di luce su questo cambiamento molto profondo che alcuni chiamano così profondo da chiamarlo rivoluzione. Quindi rivoluzione digitale, sono stato in dubbio se mettere un punto interrogativo alla fine, proprio per introdurre un elemento di problematicità, cioè è una rivoluzione, cosa ne pensate voi ragazzi? Poi un titolo di corso universitario con un punto interrogativo alla fine forse era troppo, quindi non lo so, e ho semplicemente però aggiunto un sottotitolo che trovate sul sito rivoluzionedigitale.polito.it, un sottotitolo in cui dico, è un corso del Politecnico di Torino, in cui cerchiamo di capire l'epoca in cui stiamo vivendo, gettare un po' di luce su quali sono le cose effimere e quali invece quelle strutturali di questo cambiamento digitale in diversi ambiti della nostra vita. Sì, questo è un punto interessante, perché forse è bene domandarsi, ed è bene che un'università domandi, faccia un dibattito anche con i propri studenti per capire quanto rivoluzione sia, quali sono i vari punti di vista, ma in effetti noi stiamo vivendo un periodo straordinario in cui stanno cambiando tantissime cose e la cosa positiva è che siamo solo all'inizio, almeno dico io, ma vorrei il tuo parere, di questo cambiamento. Sì, è molto probabile. Ovviamente chi sta in mezzo a una rivoluzione ha sempre delle idee piuttosto confuse e forse inevitabilmente confuse, però la mia sensazione personale è che siamo effettivamente all'inizio, perché ci sono degli ambiti dove in linea di principio, se ci pensiamo, è ovvio che il digitale potrebbe portare grandi cambiamenti, ma non è ancora successo e quindi è legittimo sospettare che magari il cambiamento è ancora di là da venire. Faccio un esempio, in parallelo alla preparazione di questo corso, negli ultimi 5 mesi ero presso l'Università di Harvard, preparavo questo corso, ma in parallelo sto anche scrivendo un libro sul futuro dell'università nell'epoca della rete. È inevitabile chiedersi, ma questa rivoluzione digitale che sta sconvolgendo diversi ambiti, dal giornalismo alla politica, che effetto avrà sull'università o in generale sulla formazione? Ecco, questo è uno dei temi che tratteremo nel corso, nel penultimo incontro a inizio giugno. Ci proveremo a riflettere con gli studenti e con degli ospiti, cercando di ragionare in che modo la rivoluzione digitale toccherà anche noi stessi che viviamo dentro l'Accademia. Bene, io ringrazio il professor Juan Carlos De Martin per essere stato con noi e anche per l'attività che fa al di là dell'università, perché è preziosa, sempre molto chiara, perché la chiarezza, proprio visto che stiamo vivendo momenti e periodi e anni un po' difficili da comprendere, è importante. Grazie, a presto, buon lavoro. Grazie a voi altrettanto. Digital News. Adesso alcune notizie della settimana. Anche questa settimana non è stata una settimana con notizie particolarmente interessanti, ma iniziamo dal settore sempre in fermento dei social network, che continua ad espandersi e in modo particolare continua a crescere Pinterest, i cui utenti sono aumentati a marzo, pensate, del 52% a quota 17,8 milioni. Pinterest funziona come una bacheca sulla quale attaccare con una puntina virtuale, diciamo così, fotografie o video che poi gli utenti che ci seguono, un po' come funziona con Twitter, ci sono i follower, possono poi commentare e anche diffondere. La prossima settimana Let's See, l'organismo che si occupa di standardizzazione in Europa, parliamo di elettronica, deciderà quali specifiche dovrà avere la nuova nano SIM, chiamiamola così, che dovrebbe essere più sottile, più piccola, addirittura di un terzo rispetto all'attuale micro SIM. Sapete che esiste la SIM tradizionale, quella dei telefonini, la micro SIM che viene utilizzata in alcuni smartphone, i primi a utilizzarli sono stati gli smartphone della Apple, ovvero l'iPhone, e adesso dovrebbero introdurre questa nano SIM. Per arrivare al nuovo standard ci sarebbe in corso una battaglia tra Apple e Nokia, che vorrebbero naturalmente imporre le rispettive tecnologie. Facebook ha acquistato da IBM, quindi ha speso un po' di soldi per comprare 750 brevetti per incrementare il proprio portafoglio e rispondere così alle accuse di Yahoo sulla proprietà intellettuale. Yahoo accusa e ha denunciato Facebook per aver utilizzato, così dice Yahoo, senza permesso alcuni dei suoi brevetti, in particolare legati alla pubblicità e alla protezione della privacy. Ricorderete che la scorsa settimana abbiamo parlato della crescita esponenziale del traffico di segnalazione sulle reti mobili, quel traffico generato dalle app e degli smartphone che sta mettendo in crisi le reti di telefonia. Le cose variano da un sistema operativo ad un altro, naturalmente. iOS sembra essere il più efficiente, quello che genera meno traffico di segnalazione, mentre sotto accusa c'è particolarmente Android. E questo traffico è anche un problema per il consumo delle batterie, quindi se le app generano così tanto traffico, non solo le reti vengono messe in difficoltà, ma anche le batterie del nostro smartphone. Recenti studi dimostrano che gran parte dell'energia utilizzata per eseguire le app gratuite serve, pensate, per farci vedere la pubblicità. Quindi le app in realtà sono occupate a raccogliere pubblicità dalla rete piuttosto che far funzionare l'app vera e propria, che magari richiede una percentuale molto bassa di energia. Sempre la scorsa settimana abbiamo parlato dell'importanza della fotonica. Bene, questa settimana alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è stato battuto il record mondiale di velocità su internet, cioè di capacità di trasferire dati. Parliamo di oltre 1000 gigabit al secondo. La sperimentazione è stata condotta in una porzione di rete spagnola lunga 300 km, naturalmente in fibra ottica, messa a disposizione dal gestore telefonico Telefonica, scusate il gioco di parole, tra la città di Granada e Jean, grazie ad apparati commerciali prodotti dalla Ericsson insieme a prototipi realizzati a Pisa. Secondo la società di ricerche StatCounter, Google Chrome, quindi il programma di navigazione di Google, per almeno un giorno nel mese di marzo, il 18, sarebbe stato il browser più utilizzato al mondo su computer. Chrome ha raggiunto il 32,7%, mentre Internet Explorer ha registrato un 32,5%, quindi grosso modo siamo allo stesso livello. A parte questo guizzo di questo giorno, Internet Explorer rimane il primo programma di navigazione, seguito da Chrome, ma quello che è interessante è il trend di crescita, perché Chrome sta crescendo molto rapidamente. A circa il 25% c'è Firefox, mentre più arretrati ci sono Safari, poco meno dell'8%, e poi Opera e tutti gli altri browser minori. Noi naturalmente consigliamo Firefox, che riteniamo il miglior sistema per navigare in internet, anche perché appartiene alla Mozilla Foundation, che non è legata, come quasi tutti gli altri browser, ad aziende che hanno anche altri interessi sulla rete internet e per questo motivo spingono il loro programma di navigazione. Ma di questo abbiamo parlato in altre puntate di 2024. Allora, concludiamo questa prima parte di 2024, ci risentiamo tra poco, parleremo del mercato dell'elettronica di consumo, vi aspettiamo anche al nostro numero verde. 2024. La seconda parte di 2024, vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta, per parlare con noi, 800240024, e voi vi domanderete, ma per dire che cosa? Allora, tra poco noi parleremo della crisi dell'elettronica di consumo, del mercato dell'elettronica di consumo. Ci sono varie cause, parleremo anche di queste cause, ma parleremo anche del punto vendita. Questo è un tema di cui pochi parlano, in realtà però è esperienza di quasi tutti prima o poi entrare in un punto vendita di elettronica di consumo per guardare, non sempre acquistare, ma naturalmente in molti casi anche proprio fare un acquisto. Allora, la domanda che vi facciamo è: che cosa dovrebbero fare per dare nuovi servizi, per trovare anche idee per sfuggire a questa crisi, i punti vendita, le grandi superfici che ci fanno vedere, che molto spesso sono il primo punto di contatto con l'elettronica di consumo. Magari esce un nuovo prodotto, ascoltate alcune cose alla radio, guardate sui siti internet, su qualche rivista, poi uno vuole vedere, vuole provare ed entra in un punto vendita. Gianfranco Giardina è il direttore del magazine digitale D-Day.it. Ciao Gianfranco, bentornato. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Alcuni ascoltatori andranno su D-Day.it perché dicono: voglio vedere la tal cosa, però poi... E poi prima o poi la vogliono anche toccare. Esatto. Allora, prima di parlare di questo tema, avremo anche un ospite che vi presenteremo tra poco. Parliamo brevemente del nuovo iPad, che molti, per farsi capire, parlano di iPad 3. In realtà quello non è il nome ufficiale, il nuovo iPad, che ci dice anche qualche cosa. iPad 3 sarebbe stato un cambiamento drastico, invece il nuovo iPad è un upgrade del vecchio. Ne parliamo visto che il prodotto è uscito nei negozi in Italia ieri, dico bene? In Italia ieri, sì. Ieri mattina. Quindi una settimana dopo rispetto agli Stati Uniti, c'è stato meno fermento rispetto alle altre edizioni. Stessa cosa negli Stati Uniti. Io sono andato a far visita ad un paio di negozi Apple il pomeriggio del venerdì scorso. C'era moltissima gente, ma non nelle file oceaniche che duravano ore e ore, insomma, col tutto esaurito delle altre edizioni. Voi avete pubblicato sul sito internet una serie di tabelle che fanno un po' i conti per farci capire quanto ci costa questo prodotto se noi lo leghiamo ad un piano, cosa quasi obbligatoria, non è detto che uno lo debba fare, però quasi obbligatoria, se lo leghiamo ad un piano dati con un operatore di telefonia mobile. Cioè, più che altro se il prodotto viene acquistato direttamente dal gestore, quindi TIM, Vodafone o 3, attraverso un contratto che ovviamente, come succede per gli smartphone, vincola un periodo contrattuale fisso che è di 30 mesi per tutti e tre i gestori, quindi in tutti e tre i casi il vincolo è di 30 mesi. In questo modo praticamente non si paga più se non un anticipo, cioè non si paga il prodotto che comunque può essere acquistato nei negozi a prezzo pieno quando si vuole. Quindi in questo caso, in alcuni casi, secondo gli abbonamenti che si fa, addirittura non si pagano anticipi, ma lo si paga via via con una tariffa per una durata minima di 30 mesi, e poi dopo i 30 mesi si può dar disdetta. Che cosa consigliate voi a conti fatti? Uno si fa i suoi, insomma, va a vedere. È molto complesso e dipende un po' anche dal profilo di utilizzo, da quanti gigabyte di traffico si vuole. così a occhio nudo, a occhio semplice, diciamo così, a prima battuta, 3 sembra quello avere le tariffe più convenienti, ma come spesso accade per questo gestore anche per la telefonia mobile, però poi ovviamente bisogna soppesare anche la presenza dei vari gestori, la copertura dei vari gestori nella propria zona. Visto che parliamo di nuovo iPad, nome un po' strano perché poi magari fra qualche mese non sarà più nuovo, quindi certo, continueremo a chiamarlo nuovo, esatto. Quello nuovo sta nuovissimo iPad a questo punto. Comunque, sempre visto che parliamo di nuovo iPad e di traffico dati, io direi che dobbiamo anche ricordare che questo apparecchio, che è compatibile LTE, quindi con la telecomunicazione di quarta generazione, telecomunicazioni mobili di quarta generazione, lo è soltanto per le frequenze presenti negli Stati Uniti. Quindi se si viaggia negli Stati Uniti, a patto di avere una SIM americana, ovviamente si può navigare velocissimi. Questa funzione non è oggi disponibile perché mancano ancora le reti, in realtà, ma non sarà comunque disponibile con questo apparecchio perché le frequenze utilizzate da noi non sono compatibili con quelle presenti sul chipset. Di conseguenza, anche se questa, quando si guarda nei siti internet americani, è una caratteristica molto enfatizzata, bisogna ricordare che qui da noi praticamente sì, non può essere utilizzato. Esatto, quindi diciamo che la grande novità di questo prodotto è sostanzialmente lo schermo molto più definito e quindi quattro volte la risoluzione, esatto, di quello precedente, e quindi una risoluzione assolutamente, sì, incredibile. Non è proprio possibile vedere il Pixel anche se nulla. Anche se alcuni americani hanno fatto un esperimento, hanno messo l'iPad vecchio, insomma il 2, in mano ad alcuni dicendo guardate che bello il nuovo iPad, e questi ci hanno creduto dicendo ah, effettivamente molto molto più bello. Questo per dire, insomma, a conferma del fatto che non stiamo in presenza di una grande novità. Questo lo diciamo e lo sottolineiamo perché è uno degli spunti che ci servirà tra poco per parlare della crisi del mercato dell'elettronica di consumo. Gianfranco, una domanda: in questi 2 anni e mezzo che gli operatori ci legano, nel caso noi vogliamo acquistare il prodotto attraverso gli operatori di telefonia, se si rompe la garanzia sta in carico all'operatore? Beh, cioè, allora, è dell'operatore. Se si rompe per un difetto, sì, sì, certo, vale la garanzia di legge. In realtà, se lo rompiamo noi, a meno questo... che non venga fatta un'aggiuntiva polizza casco laddove disponibile, assolutamente no, è un guasto a nostro carico. Quindi ci rivolgiamo all'operatore? Ci rivolgiamo a chi ce l'ha venduto, come sempre la garanzia di legge ci si rivolge a chi ce l'ha venduto, quindi esatto, nel caso specifico, esatto, all'operatore. Allora, in questo caso sarà interessante sapere come reagiranno gli operatori, visto che Apple è stata multata dall'antitrust e questa settimana il TAR del Lazio ha respinto la richiesta della Apple di sospendere questa multa, che è una multa sono due multe da 500 e 400 mila euro, quindi un totale di 900 mila euro. Una multa che è stata decisa dall'antitrust perché la Apple non rispettava appunto queste normative legate alla garanzia. Quindi bisognerà vedere poi come gli operatori risponderanno, ma penso che a questo punto si dovranno adeguare, anche se Apple per il momento non si sta adeguando. No, Apple non si adegua quando si mette il cappellino da rivenditore, cioè quindi quando vende negli Apple Store o fisici o online, ma vende direttamente. Quando invece vende attraverso dei rivenditori, come per esempio gli associati Aires, saranno gli associati Aires come rivenditori a dover riconoscere la garanzia di legge di 2 anni. E dopodiché ci sarà una partita interna tra il rivenditore e Apple per capire chi risarcisce i costi della riparazione o della sostituzione in quell'anno che intercorre tra l'anno di garanzia convenzionale offerto da Apple, che è solo un anno, e il secondo anno che invece è obbligo per il rivenditore riconoscere a norma di legge. Quindi il problema con Apple è stato proprio che quando Apple vende direttamente tende a riconoscere soltanto l'anno di garanzia convenzionale da produttore, ma ahimè in quel caso è anche rivenditore e ovviamente ha in capo gli obblighi che sono previsti, esatto, per il rivenditore secondo la legge. Allora, va detto che ci sono alcune associazioni di consumatori che si stanno rivolgendo addirittura alle autorità competenti a livello europeo per chiedere che venga imposto ad Apple di applicare questa regola che tu hai ricordato. Per completezza dico anche, visto che prima dicevo che il TAR del Lazio ha respinto la richiesta di Apple di sospensione di queste multe, però Apple ha tempo fino alla sentenza definitiva dell'appello, che è attesa per il 9 di maggio, prima di dover procedere all'adeguamento entro 90 giorni quindi insomma ci sarà, c'è ancora un po' di tempo. Sì. Dunque, tu hai citato l'AIRES. L'AIRES è l'associazione italiana che raggruppa, che associa le principali, ma direi sostanzialmente quasi tutto il mercato, catene che vendono elettronica di consumo in Italia. Tra poco sarà con noi il presidente e da qui partiremo tra poco appunto per parlare dei punti vendita. Già qualche ascoltatore ci ha chiamato per dire la propria su questo tema, cioè che cosa vorreste in più dal punto vendita in termini di servizi, di nuove idee. Partiremo da qui per parlare un po' della crisi, ma anche insomma delle idee per superare la crisi. 2024. Dicevamo poco fa che il punto vendita spesso è il punto all'interno del quale si entra a contatto per la prima volta con un nuovo prodotto, magari si sanno già le caratteristiche, si sono viste foto, ma non si è mai tenuto in mano uno smartphone, non si è mai stati davanti ad un particolare TV oppure un computer, si tocca il tablet e lo si pesa, perché un conto è dire pesa tot grammi, un conto è tenerlo in mano. Gianfranco, dicevamo poco fa, e da qui vorrei partire, che l'iPad è un po' una dimostrazione di quello che sta succedendo nel mercato dell'elettronica di consumo. Stiamo vivendo mesi in cui ci sono alcune novità, ma non molto innovative, o comunque in generale potremmo dire che non ci sono tante novità, e questo naturalmente si somma alla crisi generale economica che ha creato un po' di problemi anche alla distribuzione. Sì, allora non ci sono le novità o le innovazioni come eravamo abituati a pensarle, cioè fino a qualche tempo fa arrivavano dei prodotti radicalmente nuovi, singoli prodotti, singole tecnologie, e quindi arrivava questo prodotto e faceva venire gran voglia di essere acquistato e quindi ci si dedicava a questo. Oggi in questo momento, in questa fase di mercato, potrebbe sembrare che la creatività della tecnologia stia un po' scemando. In realtà stiamo andando verso un'ottica di ecosistema dove le novità, il fattore veramente intrigante è quello di collegare oggetto con oggetto, prodotto con prodotto, di farli lavorare insieme, di lavorare per esempio, avere tutti i dati in cloud, la capacità abilitante di internet di cambiare il volto e anche la funzione a molti prodotti, soprattutto internet in mobilità, la geolocalizzazione, quindi un sacco di piccole innovazioni che messe insieme stanno cambiando lo scenario dell'ecosistema digitale. Ma effettivamente, no, al di là degli smartphone e dei tablet, che sono quello che in questo momento fanno veramente battere il cuore, e parliamo degli italiani, no? Poi magari su altri mercati esteri ci sono anche altre tendenze, ecco, ma al di là di questo, no, e anche a causa di una grandi vendite negli anni passati di altre categorie, parlo per esempio di TV, ormai moltissimi hanno fatto la migrazione, se non quasi tutti, al digitale, alle TV a schermo piatto, ai grandi schermi. Adesso chiaramente è un mercato che continua a esistere, ma un po' meno d'appeal rispetto a prima. Sì. E poi mancano anche su questo fronte, per adesso, grandi novità. Ormai è tanti anni che ci interroghiamo anche da questi microfoni, plasma, LCD, sono arrivati gli LCD retroilluminati a LED, ma sempre di LCD parliamo, aspettiamo magari altre innovazioni. I negozianti dicono spesso che avrebbero bisogno di maggiori novità. Gli utenti spesso invece dicono che semplicemente avrebbe bisogno di un po' più di semplicità, che ancora non c'è, ecco, che questo invece forse non c'è. Ci sarà mai. Dicevo poco fa che tutto ciò crea problemi anche alla distribuzione, che si sommano alla crisi economica più generale. Pensate che se guardiamo alle principali catene italiane che sono associate all'AIRES, il calo del fatturato nel corso dello scorso anno è stato dell'8,3%. Saluto Albino Sonato, che è il presidente di AIRES. Benvenuto a 2024. Buongiorno a tutti voi e ai radioascoltatori. Allora Sonato, dicevamo che questo crea problemi soprattutto su alcune categorie, altre tengono, ma sono categorie dove magari la marginalità è più bassa. Ci faccia un po' il quadro della situazione, di quello che sta succedendo e come la vedete voi, come la state vivendo? Il quadro, diciamo così, è sì in parte legato, diciamo, a una non evoluzione tecnologica costante e continua come eravamo abituati qualche anno fa. però siamo comunque di fronte a innovazioni grandissime, poi le spiegherò. Il problema è che nei punti vendita non entrano più i consumatori come prima, e quindi un consumatore che fa shopping, entra in un centro commerciale, entra in un negozio di elettronica di consumo, bene o male, prima qualche cosa acquistava perché aveva una maggiore disponibilità, passavano a più persone e quindi era di fatto un mercato maggiormente, come dire, sostenuto. Pensiamo solo a quello che succedeva quando c'era il digitale terrestre in atto: si vendevano più televisori, ma molte più lavatrici e molti più, diciamo così, piccoli elettrodomestici, solo per il fatto che la pedonabilità nei punti vendita era molto, molto più alta in conseguenza di questa, diciamo, obbligata innovazione tecnologica, perché era obbligata comunque, no, dal cambio tecnologico. Oggi questo non c'è, e se a questo aggiungiamo la crisi che si fa sentire, è ovvio che non c'è tecnologia innovativa che tenga per sostenere i consumi come eravamo abituati ad avere. Comunque, in ogni caso, parliamo sempre di consumi che sono a grandi linee quelli che avevamo nel 2009, prima dell'inizio del digitale terrestre. Sì, sì. Faccio solo una parentesi sul digitale terrestre, giusto per non abbandonare i nostri ascoltatori del Sud Italia. La rivoluzione digitale terrestre è iniziata nel Sud Italia e si concluderà nel Sud Italia, partita dalla Sardegna, se non sbaglio, nel 2006 addirittura. Sì. E si sta concludendo Sardegna. Diciamo Sardegna prima area digital, sì. Poi si è partiti con il continente, eccetera, eccetera. E si sta concludendo quest'anno in Sicilia. Quindi sì, una transizione che qualcuno ha detto fosse un po' troppo lunga, perché è vero che ci voleva del tempo anche per far capire ai consumatori questi concetti, però una volta visto che le prime regioni andavano via sufficientemente lisce, si poteva anche accelerare. No, lo dico perché giustamente, insomma, chi ci ascolta da queste regioni, noi diamo per scontato che ormai il digitale, visto che l'abbiamo vissuto in Lombardia, da dove noi trasmettiamo già da molto tempo, diamo per scontato che sia già accaduto. È anche vero che, come diceva Sonato, la stragrande maggioranza della popolazione ha già fatto questo passaggio. Sonato, vedo dai dati che voi avete diffuso recentemente assieme ad Accenture, avete realizzato un osservatorio, una ricerca, Iris Accenture. Vedo che, allora, se guardiamo all'audio video c'è stato un crollo del 20%, se guardiamo alla fotografia c'è stato un bel calo di oltre il 5%, altri settori segnano cali dall'8 al 5, eccetera, eccetera. Tengono un pochettino le telecomunicazioni, che sostanzialmente sono gli smartphone, che sono cresciuti del 3%, e grosso modo piatto è il settore dell'information technology, ovvero i PC e i tablet, ma tutto ciò sostenuto dai tablet. Questo però che cosa significa per voi che vendete? Significa un cambio del mix delle vendite pazzesco, nel senso che le macchine fotografiche un po' subiscono l'effetto di questi smartphone che fanno fotografie eccezionali, diciamo così. L'IT comunque subisce l'effetto di questi tablet maggiorati, definiamoli così, che ovviamente sono un po' computer, un po' telefono e un po', diciamo così, c'è sostanzialmente, come dire, un cambio di prodotti che stanno dando prestazioni diciamo più allargate in senso generale rispetto a prima. Il computer faceva il computer, il telefono, ora ci sono questi prodotti ibridi misti che offrono tutte le possibilità di telefonare, di fotografare, di fare internet, tutto, e quindi c'è questo spostamento del fatturato su queste tecnologie. Oggi uno smartphone devoluto fa delle fotografie in alta definizione pazzesche, cioè una qualsiasi macchina fotografica normale, non parlo delle reflex, non fa delle foto così belle, trasferibili immediatamente sul computer o in qualsiasi altro modo. È ovvio che qui dobbiamo aprire il capitolo della convergenza digitale, che è la grande innovazione tecnologica che, a mio avviso, porterà certamente possibilità di crescita di questo settore, che è all'inizio, diciamo proprio all'inizio. E questa evoluzione passa attraverso lo smart TV. Oggi i TV, diciamo così, banali sono ormai stati già venduti sostanzialmente, le famiglie hanno già televisori banali, ma quello che sta avvenendo è l'arrivo dei televisori smart TV. Già abbiamo superato la tecnologia 3D non interessa più di tanto. Si è visto che i consumatori la tecnologia 3D non l'abbiamo nemmeno superata, diciamo che l'abbiamo lasciata proprio da parte. Non è piaciuta, non ci sono contenuti, non è piaciuta. Invece sta affermandosi ovviamente quello che era logico si affermasse, e cioè diciamo la convergenza vera. Quindi questi tre apparati, quattro apparati, i tablet, gli smartphone insieme, il PC e il televisore, sono quattro apparecchi che dialogano tra di loro. È ovvio che questo è un processo dal punto di vista tecnologico pazzescamente evolutivo, e che avrà anche qualche difficoltà a, come dire, a essere implementato nel sistema dei consumi, perché richiede comunque una dimostrazione, richiede una conoscenza particolare di come questi sistemi si interfacciano. Non difficile, è assolutamente banale, però occorre far capire. Ma qui si apre un altro capitolo ancora più grande: questi prodotti funzionano e sono assolutamente attraenti in quanto possono avere grandi contenuti. E però su questo voi non ci potete fare quasi nulla. Noi diciamo, non ci possiamo fare nulla, poco, però alcune aziende sono già intervenute. Io non posso fare nomi ovviamente in radio, ma posso dire che tra i produttori di TV ce n'è uno che assolutamente ha già completato il ciclo ed è veramente il grande, diciamo così, competitor del numero uno degli smartphone, dei tablet, che li chiama Apple nel mondo. Perché effettivamente ha tutta la capacità del ciclo, diciamo, di convergenza. Lo facciamo dire a Giardina, se lei non lo vuole. Già si può dire? Ma si può dire, se abbiamo nominato Apple si può nominare Samsung. Ecco, stavamo per dire, no. Esatto. L'avevamo identificato già. Sonato, ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi sentiamo anche alcuni ascoltatori. Vi ricordo che potete intervenire e dire la vostra. Sicuramente una domanda che io farò a Sonato, che farei anche a Gianfranco Giardina, per capire quali idee, al di là insomma, di questa evoluzione, rivoluzione tecnologica che vivremo, ma anche in quel caso diciamo che gli elementi ci sono già tutti, quindi non ci sono novità, si tratta solo di metterli assieme e magari di spiegarli ai consumatori. Forse ci possono anche essere delle idee innovative che possono essere implementate nel punto vendita. Allora chiedo anche l'aiuto degli ascoltatori al nostro numero verde 800 24 00 24. Ci sentiamo tra qualche minuto. 2024. Le 16:32 minuti, riprende 2024, che troverete anche all'interno del servizio podcast di Radio 24. Tutte le informazioni sono su www.radio24.it. Entrate nella pagina di 2024 o entrate direttamente nella pagina podcast, lì poco dopo il termine della nostra trasmissione troverete il file MP3, ma io vi consiglio di abbonarvi con un sistema di quelli che gestiscono il podcast, scaricate automaticamente il file e non ci pensate più settimana dopo settimana. È con noi il presidente dell'AIRES, con il quale stiamo parlando della crisi, ma adesso vogliamo andare oltre la crisi e cercare di parlare anche delle idee che si possono introdurre nei punti vendita. Albino Sonato, allora, sulla crisi insomma abbiamo raccontato un po' quali sono le prospettive. Sull'evoluzione tecnologica voi vi adeguate a quello che fa l'industria, sicuramente potete cambiare l'esperienza del cliente che entra nel vostro punto vendita. Da questo punto di vista ci sono delle idee, si può fare qualche cosa o anche qui c'è un po' di crisi? Ah, diciamo che qui crisi non c'è, nel senso che in Italia siamo nel paese dove c'è stata un'interpretazione assolutamente moderna del modo di proporre l'elettronica, e stiamo assolutamente seguendo l'evoluzione proprio che comporta questa convergenza digitale. I negozi nuovi, i futuri negozi, devono avere assolutamente a disposizione tutti quei concetti di dimostrazione non solo della convergenza dal punto di vista tecnologico, ma dal poter permettere al consumatore di vedere tutte le application, i contenuti che si possono spostare, muovere da un'apparecchiatura all'altra. Quindi i negozi dovranno subire un grande cambiamento dal punto di vista strutturale, dovranno essere adeguati e con delle esposizioni direi che semplificano al massimo l'utilizzo di questi oggetti complessi, con del personale molto qualificato, molto preparato da un punto di vista professionale, che usi un linguaggio semplice, altrimenti non è comprensibile, in quanto quando parliamo di TV lo vogliamo parlare, significa parlare di target famiglia, quindi di un target che ha bisogno di essere sostenuto da un punto di vista dell'utilizzo, anche se a onor del vero ormai anche il target famiglia, le persone in quarantenni, quelli che di solito acquistano il televisore, sono degli smanettoni notevolmente preparati sulla tecnologia moderna. Quindi i negozi subiranno un grandissimo cambiamento, proprio perché cambiano addirittura gli spazi, le dimensioni, ma sarà nei negozi che si potrà far vedere davvero quello che è il grande vantaggio della convergenza digitale, quindi di poter vedere una fotografia appena scattata con uno smartphone sul televisore in un lampo, in un battibaleno. Queste sono le quindi, cose che vorremmo dimostrare. Quindi cosa che oggi si fa poco. Sì, perché questa tecnologia inizia adesso. Beh, inizia adesso, ma diciamo che è iniziata già da un po' di qualche, insomma, qualche sì, tempo. Sì, però quando io parlo di questa convergenza, io dico che il ciclo si è completato ora con l'arrivo degli smart TV, perché prima era un TV ancora che non consentiva l'applicazione al 100% di questa tecnologia, ma gli smart TV oggi sono assolutamente lo strumento ideale in famiglia per fare tutto. Adesso, al di là dei contenuti enormi che diciamo può permettere di utilizzare, si parla di aziende che hanno già fatto accordi con broadcast per migliaia e migliaia. Sì, no, mi è chiarissimo. Lei dice, insomma, la TV è il completamento di questo ciclo. Detto alla radio, insomma, a noi ci piace poi così tanto parlare della TV, però capisco che lei guarda al mercato e giustamente quello è. Leggo un messaggio di un ascoltatore, poi sentiamo anche due ascoltatori al telefono, poi Gianfranco Giardino, volevo chiedere un parere anche su altre cause della crisi, visto che ce ne sono tante. Andrea su Facebook ci scrive: io desidero provare il prodotto, averlo a disposizione per testarlo, toccarlo, vederlo funzionare. Tante volte sono tornato a casa insoddisfatto, avrei voluto avere più tempo per provare. Dice: le catene hanno solo fretta di vendere, chiedere di scartare o provarlo li sconvolge. Quando trovi il commesso simpatico ti consiglia di consultare i forum. Questo era Facebook. Andiamo a Grosseto da Marco. Buongiorno Marco. Buonasera a voi. Prego. Finalmente io parlo. Mi senti? Sì, se parla la sentiamo. Ecco. Allora, no, volevo dire che in pratica confermo quello che diceva prima il vostro ospite, nel senso che quando un utente arriva nel negozio è un po' frastornato da quella miriade di schermi, di prodotti che sono disponibili e non viene in nessun modo veicolato nella scelta. Oltre a quello volevo anche aggiungere che i siti non sempre sono fatti per facilitare questa scelta, ma anzi a volte hanno delle descrizioni povere. Faccio alcuni siti, cioè, ad esempio Euronics ha delle descrizioni dei prodotti veramente poveri che non aiutano a questa scelta. Gino da Padova, buongiorno. Oh, buonasera dottor Pagliarini. Prego. E complimenti per la trasmissione che io ascolto da quando è nata. Ah, quindi dal 1999? E circa dal 2000, lei faceva delle trasmissioni la sera sul computer soltanto e c'era molto interesse su questo. C'era anche Gianfranco Giardina con noi. Ok, senta, quando io vado nei negozi, ecco, la cosa che io noto è che non c'è la possibilità di un raffronto fra le caratteristiche dei vari componenti. Ci sarebbe la possibilità, ci potrebbe essere la possibilità di raffrontare magari la Samsung con la BenQ, con la Nokia, con qualsiasi altra marca, e avere una specie di prospetto per poter vedere quali sono le caratteristiche di un oggetto rispetto ad un altro, in modo da poter individuare quello che fa più per me. Chiarissimo, chiarissimo. Io su internet lo trovo, però nei negozi no. Beh, perché potrebbe... naturalmente il commerciante cerca di vendere quello che gli interessa a lui. Sì, sì. A questo punto uno potrebbe dire vada su internet a fare i confronti, poi va nel punto vendita dopo, oppure compra online, ma magari a Sonato non piace molto questa frase compra online, poi lo sentiamo. Gianfranco, vuoi dirci qualche cosa su altre cause della crisi, ma anche poi fare una considerazione su questi ascoltatori che in definitiva fanno quasi tutti riferimento ad un problema, cioè la mancanza di tempo che i commessi spesso hanno, perché magari ci si va sabato pomeriggio dopo aver ascoltato 2024 e tutti sono lì. Certo, bisogna allora avere chiaro, chiarissimo in mente, ma questo è un vincolo ovvio, no? E probabilmente non eliminabile, che se si va ad acquistare il sabato pomeriggio, probabilmente il livello di assistenza che si potrà ricevere sarà più basso che in altri momenti. In alcuni casi, quando il negozio è molto affollato, può essere che anche l'assistenza possa essere nulla, cioè si compra il libro servizio oppure non si compra. E questo chiaramente non aiuta in un contesto che, come ha detto giustamente il nostro ascoltatore, è complicato, perché questo va detto, purtroppo questa convergenza è bellissima quando funziona, ma all'inizio capire cosa va con cosa o cosa è compatibile, perché poi non si compra tutto l'ecosistema tutto insieme, bisogna comprare qualche cosa che magari sia compatibile con quello che già si ha a casa. Ecco, questo non è molto semplice. Ormai il prodotto non è più monolitico, si deve connettere con gli altri, e avere certezze su questa interfunzionalità non è semplice. Quindi ci vorrebbe più chiarezza oppure più informazione. Va detta anche un'altra cosa importantissima: chi pensa di poter fare un acquisto consapevole, ben fatto, senza essersi mai più occupato dall'ultimo acquisto di tecnologia, probabilmente sbaglia. Cioè, non si può andare a comprare un TV ogni 10 anni, poi arrivare in negozio e pretendere che ci sia qualcuno che in 10 minuti possa spiegare cos'è successo negli ultimi 10 anni. È impossibile, è successo di tutto negli ultimi 10 anni. Se parliamo di TV, sono arrivati schermi piatti, è arrivata l'alta definizione, è arrivato il 3D, sono arrivati gli smart TV, e sono arrivate le prese HDMI, le capacità PVR, le porte USB e così via. E quindi tante sigle che vanno spiegate se uno non le capisce, e quindi ci vuole del tempo. E questo è un grande problema. Per questo noi abbiamo proposto e continuiamo a ritenere che sia una cosa, per esempio, interessante poter riempire i momenti di stanca del negozio, che evidentemente esistono, perché ci sono alcune fasce orarie che non hanno un'alta presenza di clienti in negozio, e poi, come ci diceva il presidente Sonato, magari sono anche un po' in decrescita queste visite in negozio. Ecco, riempire questi spazi con degli appuntamenti, quindi delle vendite assistite su appuntamento. Cioè, il televisore, per avere tutte le spiegazioni del caso, non te lo posso vendere di sabato pomeriggio, ma se vieni, per esempio, di mercoledì mattina alle 11, ti aspetto e ti dedicherò il tempo necessario per farti capire tutto quello che serve e, se hai bisogno, darti tutte le informazioni. Poi, se sei convinto, completi l'acquisto, o se no, ti ho dato delle informazioni. Credo che questo possa essere un modo quasi a costo zero, devo dire quasi a costo zero, per abilitare all'acquisto chi oggi non compra perché non capisce. Ricordiamoci che in tecnologia, se uno non capisce, non conosce l'innovazione, non la capisce, non è disposto a comprare, o se deve comprare, comprerà il primo prezzo, perché tanto le innovazioni tecnologiche non riesce a valutarle, a dargli un valore. In Italia abbiamo il mix di prodotto forse tra più bassi di quelli di tutta Europa, quindi possiamo migliorare molto alzando la qualità del prodotto se soltanto riuscissimo a spiegare questo prodotto. Lo facciamo 2024, lo facciamo noi su D-Day tutti i giorni. Io credo che questo lavoro vada moltiplicato, per esempio, anche per tutte le migliaia di punti vendita che ci sono in Italia, e credo che l'effetto poi sul mercato ci potrebbe essere. Benissimo, allora tra poco diamo la parola ad Albino Sonato, perché ci sono molti elementi da commentare. Adesso c'è la viabilità. 2024. Riprendiamo l'ultima parte di 2024. Nicolò da Verona fa una considerazione interessante via SMS. Nicolò, chiamaci al nostro numero verde, perché questa è una cosa che potresti raccontare alla radio. Sonato, abbiamo messo sul piatto un po' di considerazioni. Insomma, è vero che a volte si entra, il commesso non ha tempo da dedicarci, questo è sicuramente uno dei problemi. Sì, ma io condivido quello che ha detto Giardini pochi minuti fa. Il discorso è questo: noi abbiamo avuto negli ultimi anni una tale immissione di nuovi prodotti a raffica, chiamiamola così, che non c'è stato neanche il tempo di analizzarli dal punto di vista proprio di poter imparare a conoscerli fino in fondo. Ora questo ha creato non pochi problemi ai negozi, perché l'innovazione così rapida ha bisogno di tempi per poterla, come dire, recepire anche da persone qualificate come sono quelle degli addetti ai lavori nell'elettronica di consumo. È ovvio che c'è stato anche un cambio dimensionale, quindi ha rivoluzionato i negozi. Ora c'è questa nuova tecnologia, diciamo così, che ci riporta di nuovo a rivedere i negozi. Quindi l'obiettivo primario è far sì che ci siano proprio dei punti dove il consumatore da autodidatta può capire quasi autonomamente come funzionano queste apparecchiature. Esempi ci sono già in Italia, in Lombardia per esempio, ma altri ce ne saranno a breve, perché proprio permettere al consumatore la possibilità, diciamo così, di anche informarsi da solo, ad essere in grado di quasi utilizzare autonomamente, senza il supporto del commesso, è uno degli obiettivi primari. Ma perché? Perché questi commessi, come si diceva prima, non possono essere in quantità, diciamo così, così elevate al sabato pomeriggio come richiederebbe il traffico di quel negozio in quel momento. Ecco, e difatti anche da noi, nelle catene di elettronica che fanno parte dell'area, sono già partiti diciamo le visite su appuntamento. Ah sì? Sì. Ci sta dando una notizia. Dove sono partite queste organizzazioni che hanno impostato la visita su appuntamento? Ovviamente non alle 4 del pomeriggio del sabato, alle 4 del pomeriggio del venerdì, del martedì, perché è possibile in questo caso. Certo che questo comporta anche un cambio di mentalità dei consumatori, ma il punto primario che dobbiamo osservare noi come retail italiano è quello di rinnovare totalmente i punti vendita. Vedrà che nei prossimi anni i punti vendita italiani, ma non solo, dovranno essere anche quelli europei e di tutto il mondo, avranno una capacità dimostrativa dei prodotti davvero rivoluzionata rispetto a quanto è avvenuto fino ad oggi. Sentiamo la tecnologia, lo impone i conti economici anche delle imprese. Sentiamo Roberto che ci chiama da Cosenza. Prego, prego. Io non chiamo da Cosenza, da Como. Ah, perdon, abbiamo scritto Gian Gabriel, che è siciliano. Ecco, volevo portare il mio contributo alla prego. Trasmissione che sta andando in onda, perché faccio anche un'altra considerazione che finora mi sembra non sia stata fatta. Mi sembra che il mercato, con le sue offerte, vada largamente al di là delle necessità della gente, normalmente. E quindi, tant'è vero che di solito di qualsiasi apparecchio elettronico o meno elettronico offerto dal mercato, non si va mai, l'utente privato non va quasi mai al di là di un 20% dell'utilizzo delle possibilità che l'apparecchio offre. E quindi, in sostanza, si ha una specie di saturazione del mercato, e per quante novità si propongono, alla fin fine le esigenze primarie sono già soddisfatte da quanto esistente. Roberto, noi la ringraziamo di averci chiamato da Como. Io non sono assolutamente d'accordo, perché sennò il mondo si fermerebbe, e anzi io desidererei avere qualcosa in più dagli strumenti, e qua torniamo al problema della capacità di utilizzare, la capacità di comprendere. Gianfranco Giardina. No, è una cosa molto importante che va capita, che è successa nella migrazione al digitale della tecnologia. Prima gli apparecchi avevano una funzione, quindi il telefono faceva il telefono e basta, la macchina fotografica solo la macchina fotografica. Chiaramente se uno era un fotoamatore ci si aspetta che possa utilizzare la sua macchina fotografica al 70, 80, 90%, se possibile al 100%. Ma quando gli apparecchi diventano multifunzione, perché la digitalizzazione lo consente, gli supporti di memoria sono gli stessi per la musica, per i video, per i testi, per internet, quindi è tutto dati, allora a quel punto un apparecchio, perché un MP3 player con display a colori non dovrebbe riprodurre anche video? Certo, riproduce anche video. Perché non dovrebbe collegarsi a internet? Certo, si connette anche a internet. Ecco, nel fare queste mille funzioni, evidentemente i prodotti acquisiscono una multifunzionalità che non si può, non si deve sposare con una multiutilizzazione da parte degli utenti, cioè ognuno utilizzerà questi prodotti per le sue inclinazioni. Quindi nel mondo digitale è assolutamente normale che un apparecchio venga utilizzato al 10-15%, però questo permette di avere anche una standardizzazione più alta delle economie di scala, che rendono i prodotti più accessibili a tutti. Quindi non bisogna sentirsi frustrati se si usa un prodotto per poche funzionalità, però le funzionalità che uso io saranno diverse da quelle che usa un altro possessore di quel prodotto. Comunque, quindi non vedo questo problema. Comunque ribadisco, siccome di strada da farcene ancora tantissima, quindi, ma pensiamo all'ignoranza che c'è nelle lavatrici, nelle lavastoviglie, cioè sono prodotti stupidi, e quindi da questo punto di vista insomma c'è un mercato da coprire. Nicolò da Verona, che ci aveva inviato un SMS, prego. Salve. No, mi sembrava interessante raccontare questa cosa che hanno fatto negli Apple Store americani, dove sostanzialmente hanno tolto completamente le casse dai negozi, non esiste più il punto cassa e tutte quelle persone che di fatto ricoprivano il ruolo del cassiere diventano dei commessi che possono spiegare delle cose alle persone e hanno delle casse mobili addosso a loro che sono degli iPod modificati che hanno la possibilità di leggere la carta di credito e di fatto possono fuggono da cassa per tutti gli utenti del negozio, quindi ci sono più commessi e ogni commesso diventa una cassa, quindi non ci sono le file e è un sistema molto più efficiente. È vero. Anche se in alcuni Apple Store c'è poi il bancone delle casse di fatto, perché io sono stato anche recentemente, ne ho fatti un po', insomma esiste anche lì, però è vero che ci sono tantissimi commessi e si possono chiedere informazioni, dipende quando ci si va, perché io sono stato in alcuni momenti, non c'era sicuramente, però quella è un'idea evolutiva. Sonato potrebbe dire, magari potessimo farlo, magari avessimo la marginalità che ha Apple, che dicono dati recenti il nuovo iPad costi $240 e viene venduto al minimo a 499 più le tasse. Quindi, Sonato, abbiamo 30 secondi per concludere e salutarci. Dicevo, magari avreste questa marginalità, giusto? No, ma non è realizzabile in un negozio dove ci sono 8-10 mila referenze rispetto a un negozio dove sono 150 referenze, quindi chiaro, è un discorso completamente diverso. Facciamo un altro mestiere rispetto a chi vende solo Apple. Noi vendiamo anche Apple, ma vendiamo anche Samsung, vendiamo anche Panasonic, eccetera, eccetera, quindi è diverso, è irrealizzabile. Comunque dal punto di vista del punto vendita ci sono già esempi che si avvicinano a questa nuova esperienza di fare acquisti, diciamo, di questa tecnologia evolutiva. E poi noi dobbiamo, siamo tutti orientati, lei prima ha parlato di e-commerce, non è un nemico, anzi è un'opportunità e-commerce. Questi negozi saranno quelli che riusciranno a far maggior concorrenza a e-commerce, proprio perché dobbiamo salutarci. La prossima volta parleremo anche di e-commerce. Grazie ai nostri ospiti, ci risentiamo la prossima settimana. 2024. 31 seconds and we're on for auto sequence start.